A tempo di sport di Giovanni Capuano. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta per commentare insieme questa 18ª giornata della Serie A che va in vacanza. In realtà manca ancora la sfida tra Roma e Milan questa sera all'Olimpico alle 20:45 e visti i risultati di ieri sera e soprattutto di questo pomeriggio è una sfida che vale doppio perché si accorcia la classifica alle spalle della Juventus e chi vince tra Roma e Milan può iscriversi davvero alla corsa per un posto in Champions League. È stato un pomeriggio in cui hanno vinto tutte le inseguitrici della Juventus tranne l'Inter, che è una squadra in questo momento ufficialmente in crisi, ma come ha detto Stramaccioni fortunatamente arriva la sosta. Comunque sentiremo tutte le voci del dopo partita e ricordo ancora i contatti 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi, oppure su Twitter @ Capuano Joe. Andiamo in onda fino alle 18 e quindi cominciamo subito, dobbiamo correre con la moviola di Graziano Cesari. Buon pomeriggio Graziano. Buon pomeriggio Giovanni. Allora, mi sembra che dopo i disastri di ieri sera, perché questo è stato, ieri sera è stato un disastro, sia per D'Amato in Cagliari Juventus che per Romeo in Pescara Catania, oggi si è andata leggermente meglio. Allora, Inter-Genoa, io non ho segnato nulla, magari un paio di ammonizioni, però insomma siamo davvero ai dettagli. Siamo veramente ai dettagli, possiamo dire un fallaccio di Ranocchia che è arrivato verso la fine del primo tempo su Bertolacci, solo giallo, ma insomma siamo proprio ai dettagli. Devo dire che questa direzione di gara di Gervasoni mi è sembrata molto culata, molto attenta, nettamente migliore di quelle delle altre precedenti di Gervasoni. Sì, assolutamente. Tra l'altro Ranocchia, che con il cartellino giallo era in diffida, salterà al rientro il giorno delle Epifania, la trasferta dell'Inter a Udine. Siena-Napoli 0-2, decidono nel finale Maggio e un calcio di rigore realizzato da Cavani, rigore per un fallo su Pandev. Devo dire assolutamente giusto il calcio di rigore concesso da De Marco, che era vicinissimo all'azione. Contini spinge Pandev alle spalle, Filipe interrompe la sua corsa, De Marco non può fare altro che fischiare il calcio di rigore, inevitabile. Nel primo tempo, a cavallo del 20esimo, ci sono due episodi. Nel primo caso ci sono una serie di spinte in area del Siena sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Sugli sviluppi del calcio d'angolo, al 20esimo Zuniga a contatto con Rosina, De Marco fischia fallo per il Napoli. Io ti devo dire la sincera verità che mi sembrava una trattenuta invece del giocatore del Napoli nei confronti di Rosina, quasi un abbraccio totale e poi lo stende. Probabilmente De Marco ha visto in questa mischia, in questo traffico di area di rigore, un'altra situazione da punire. E poi pochi minuti più tardi c'è una spintarella su Zuniga che entrava nell'area di rigore del Siena e chiede il calcio di rigore. Belmonte che è in ritardo si fa sorpassare dalla maggior velocità del giocatore, dalla destra del giocatore del Napoli, e in quel caso spinge. Spinta molto leggera, però se dobbiamo andare dal regolamento dobbiamo dire calcio di rigore. Sì, assolutamente. Atalanta-Udinese 1-1, arbitra guida, anche qui c'è un calcio di rigore che viene concesso al 40esimo del primo tempo, è il rigore con cui l'Atalanta pareggia, lo realizza poi Denis e c'è un fallo di Angella su Peluso. Molti dubbi su questo calcio di rigore, a mio parere Peluso che maliziosamente, intelligentemente si appoggia sul bacio sinistro, col bacio destro e la mano destra fa leva sul giocatore dell'Udinese e poi fa quasi una rotazione su se stesso per accentuare la caduta. Sì, questa è forse la partita con più episodi, io ne ho segnati 4. L'Atalanta chiede il calcio di rigore al 28esimo del primo tempo per un'azione abbastanza confusa all'interno dell'area di rigore. Sì, assolutamente, è molto molto confuso, perché devo dire la sincera verità, non mi sembrano gli estremi del calcio di rigore. Tantissime situazioni imbarazzanti veramente in area di rigore, tant'è che qui deve interrompere molte volte il gioco per richiamare un maggior comportamento corretto tutti i calciatori. Assolutamente, ottavo del secondo tempo, ancora l'Atalanta chiede il calcio di rigore, Raimondi va giù. No, assolutamente no, ti devo dire la sincera verità, non mi sembra proprio che Raimondi ci siano estremi del calcio di rigore. È un'azione in velocità, è un'azione che potrebbe stare in inganno il direttore di gara, che invece è molto attento, molto oculato. E poi ci sono i due minuti di Maxi Morales a cavallo del 20esimo del secondo tempo, rischia di essere espulso, viene graziato, raccontiamoli, sono due episodi. Assolutamente sì, prima è un'azione per simulazione, tenta di concedere un calcio di rigore, che prende su un calcio di rigore per un allenamento di Vertic che non alza assolutamente le mani, anche lui che con la gamba destra va a cercare il giocatore del potere Udinese, ma non ci riesce, giusto la munizione per simulatore. Minuti dopo una manata su Pinzi, una donna assolutamente innocua del centro del campo, meritava il secondo giallo, quindi in questo caso Massimo Morales è disgraziato, ma è che la panchina dell'Udinese, Migliorini in particolar modo, più avanti si precisa sì, particolarmente sì. Guidolin si è molto arrabbiato. Graziano, c'è Petkovic a Sky, sentiamolo. In casa penso che veramente abbiamo fatto grande prima parte del campionato, manca ancora una partita e adesso riposo meritato e dopo si continua. Chiedeva una prestazione importante da grande squadra per diventare una grande squadra, soprattutto in trasferta. Oggi la Lazio magari non è stata particolarmente brillante, ma ha sofferto solo l'avvio veemente della Sampdoria, ha dimostrato però anche capacità di soffrire e anche ha mostrato un'altra faccia, una Lazio che comunque sa soffrire e sa essere anche molto... Una Lazio che ha preso un gol nelle ultime 5, sentiamo la risposta di Petkovic. Abbiamo fatto diverse fasi di gioco dove siamo stati bravi in avanti, ma anche in non possesso palla siamo stati compatti. Vera squadra, abbiamo sofferto un po' primo tempo con qualche tiro da fuori, ma secondo tempo abbiamo gestito la partita e sicuramente meritavamo anche fare il secondo gol. Questo è Petkovic, 349-238-6666. Un amico scrive: mi chiedevo se qualcuno è in grado di spiegarmi quali siano i fattori vincenti della Lazio. A parte Klose, non mi sembra che ce ne sia uno più importante. Beh, Graziano, direi che Klose è certamente il fattore più importante, però il numero che ho dato io prima, e cioè un gol subito nelle ultime 5 partite dalla Lazio, è uno di quei fattori che fa la differenza, se poi Klose ogni tanto la butta dentro. Certo, e poi proprio questa, la coesione, lo spirito di squadra, una squadra che prende pochissimi gol, che però in casa forse raccoglie molto meno di quello che raccoglie in trasferta. Assolutamente. Torniamo alla Moviola, Bologna-Parma, nel primo tempo, proprio nel finale, e in quel momento il Parma è sotto per 1-0, va giù Santa Croce, cinturato, in realtà gli viene fischiato fallo contro. Ecco, in questa occasione è stato poco attento il direttore di gara russo, poteva sicuramente accordare il calcio di rigore, la cintura è evidente, poi l'accentuazione della caduta come vedete lo trae in inganno, però sicuramente c'è il calcio di rigore. E poi Palermo-Fiorentina 3-0 per i Viola, ci sono due calci di rigore per la Fiorentina, entrambi realizzati, il primo da Jovetic, il secondo da Gonzalo Rodriguez, il primo per una trattenuta di Donati su Toni. Il solito fallo di ingenuità, Toni molto bravo a smarcarsi, a conquistare il pallone, il bacio sinistro di Donati che va a trattenere il giocatore della Fiorentina, la maglia si alza vistosamente, è giusto concedere il calcio di rigore, così come è giusto concedere il secondo rigore per i Viola, quando Morganella in un intervento assolutamente composto va a impattare il pallone con le mani, quello del pallone che stava sovrastando un sombrero di Mattia Fernandez. Su Torino-Chievo mi sembra che l'unica curiosità è che il gol dell'1-0 non è di Click ma è di è un autorete di Sardo, esatto. E all'inizio non l'aveva capito nessuno. E poi c'è Sampdoria-Lazio, io non ho segnato episodi, dimmi tu. No, assolutamente, c'è un fallaccio di Soriano dopo il primo minuto, il terzo minuto del secondo tempo appena entrato sulle Desmond, un bruttissimo intervento, ammonito, ma insomma non va a incidere sull'equità della partita. E direi proprio di no. Abbiamo finito per oggi, resta la morale io credo di questa prima fase della stagione, cioè senza sperimentazione i giudici di porta hanno creato più confusione che aiutare, mi sembra, gli arbitri, non tanto sugli episodi gol non gol, c'è stata qualche scelta azzeccata e quindi da questo punto di vista probabilmente si sono evitati errori, però ad esempio anche ieri sera Orsato con D'Amato alla fine ha fatto più confusione che altro. Sì, probabilmente i 6 non sono il numero esatto, ritornare al numero 4 direttore di gara, che credo che sia molto importante, non c'è collaborazione, soprattutto non c'è simbiosi e non c'è abitudine a collaborare insieme. Un abbraccio Graziano e tanti auguri. Grazie a voi, tanti auguri. Un abbraccio a Graziano Cesari. Noi ci fermiamo, ci sono le informazioni sul traffico, sta ancora parlando Petkovic. Vi leggo la classifica: Juventus 44, Lazio 36, Fiorentina Inter 35, Napoli 34, poi Roma 29, Milan 27. Significa che in questo momento alle spalle della Juventus ci sono 4 squadre in 2 punti e la corsa alla Champions League è più aperta che mai. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi, oppure possiamo anche chiacchierare su Twitter, l'account è @CapuanoJo. Prima telefonata Alberto da Monza, buon pomeriggio. Sì, ciao. Prego. Giovanni, sono Alberto. Io volevo fare una considerazione. Io non mi attacco ai rigori non dati e agli arbitraggi, io credo che se Moratti non spende i risultati saranno sempre questi durante questo campionato. Cioè è una squadra che va rinforzata, è una squadra composta da giocatori che secondo me non sono da Inter. E ad esempio, perché io credo che l'Inter, ha ragione Stramaccioni, stia soffrendo e molto in questa ultima parte del girone d'andata la stanchezza, perché la stagione dell'Inter è iniziata a luglio, diversamente da quanto accaduto per altri. Credo che Moratti non debba spendere per avere dei risultati immediati, debba spendere in maniera intelligente, come ha fatto un anno fa ad esempio con Guarin, che adesso è un giocatore fondamentale di questa squadra. Certo, la prospettiva è che, visto come si è messo il campionato, l'Inter deve lottare per entrare nelle prime tre, deve dimenticarsi la Juventus, però non può permettersi il passo che sta tenendo ad esempio in casa contro le piccole. Tra Siena, Genoa e Cagliari ha fatto, se non sbaglio, 2 punti su 9. Basta pensare che cosa sarebbe stato il campionato dell'Inter in questo momento, facendo meglio in queste tre partite, per comprendere come l'Inter si stia un po' buttando via. Grazie Alberto. Umberto dalla provincia di Como, buon pomeriggio. Buonasera. Prego. Qualche cosa è già stato detto poc'anzi dall'altro intervento, però volevo fare una piccola riflessione. Tutte le squadre che vengono a Milano, a San Siro contro l'Inter, anche le ultime in classifica, hanno un gioco bello, bellissimo, non bello, ma un gioco ce l'hanno. L'Inter no. L'Inter no, deve sempre raffazzonare, poi negli ultimi minuti sbaglia nel primo tempo la formazione, dopo corregge. Io sono, in sostanza, voglio dire questo: penso che la vittoria sulla Juventus abbia fatto più male che bene, specialmente a Stramaccioni. Ecco, era questo che volevo dire. Sì, oggi la formazione del primo tempo, anche se Stramaccioni ha detto, e poi magari lo sentiamo, che il primo quarto d'ora è stato un buon quarto d'ora dell'Inter, oggi la formazione del primo tempo era probabilmente troppo offensiva. L'Inter ha giocato col tridente pesante e in più con Alvarez da esterno di centrocampo, un po' come ha fatto il Napoli nell'assalto finale contro il Siena, però mancavano 20 minuti alla fine. Stramaccioni la partita l'ha impostata così, nel primo tempo non è quasi riuscito a creare dei pericoli, anche dopo l'uscita di Alvarez, che si è infortunato. Alla fine avrebbe anche potuto vincerla la partita, però certamente non è stata una bella Inter quella di questo pomeriggio, così come non è stata una bella Inter quella dell'ultimo mese. Xavier Iacobelli, direttore di calciomercato.com, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi e buon pomeriggio agli amici ascoltatori da calciomercato.com. Sottoscrivi il giudizio sull'Inter di oggi? Sì, lo sottoscrivo. E soprattutto continuo a domandarmi, e presumo che a questo punto se lo chiedano anche milioni di tifosi interisti, perché Sneijder debba rimanere fuori squadra. Sì, per poi vedere Kivu giocare da interno di centrocampo. Però Xavier, insieme a te apriamo la prima pagina di A Tempo di Sport. Una prima pagina che dice che dietro la Juventus c'è solo la Lazio, che sbanca Genova ed è seconda, ripartono Fiorentina e Napoli, si ferma l'Inter, Conte va in vacanza con la fuga che voleva, più 8 su Petkovic, più 9 su Stramaccioni e Montella, addirittura più 10 su Mazzarri, il campionato è virtualmente finito. E poi l'Inter senza benzina a Natale, anche se Stramaccioni la difende, benedetta la sosta, ha fatto solo 8 punti nelle ultime 7 partite, contro il Genoa si è fermata a un palo incredibile di Livaia. Moratti, forse il distacco dalla Juventus è troppo per sperare nello scudetto. Infine, questa sera la grande occasione per Roma e Milan, chi vince all'Olimpico si iscrive alla corsa Champions, è la sfida tra Totti e El Shaarawy, il vecchio contro il nuovo, mentre il presidente del Corinthians conferma il corteggiamento a Pato. Sì, qualcuno dovrà anche chiederlo prima o poi, io credo anche avere il coraggio di fare un'analisi spietata. L'Inter aveva ovviamente tutti i diritti di intavolare una trattativa, anche una vertenza dura con Sneijder, però escluderlo nell'ultimo mese e mezzo è stato un suicidio. Certamente sì, anche perché i dati e i risultati che tu hai snocciolato dimostrano come la formazione di Stramaccioni sia preda di una inquietante involuzione tattica. Quando si vede Kivu rivestire i panni del regista, è evidente che la squadra sia corta di idee. Peraltro è altrettanto evidente che non si capisce come mai non si riesca a livello di società a trovare una soluzione di compromesso che consenta a Sneijder e all'Inter di arrivare fino al termine della stagione e poi di separare le rispettive strade. Un fatto è incontrovertibile. il Napoli ha rialzato la testa, la Lazio seconda, la Fiorentina continua a vincere praticando un gioco scintillante, noi però stiamo seguendo due campionati. Uno è quello della Juventus, che gioca con grande determinazione, rimonta e ribalta partite come quella di ieri sera a Parma contro il Cagliari e continua a vincere. L'altro è delle sue rivali che si battono per il secondo e il terzo posto sulla Champions League. Sì, che può anche essere un campionato nel campionato di assoluto interesse. Rilego la classifica dietro la Juventus, che prima quota 44, Lazio 36, Fiorentina Inter 35, Napoli 34 e pesano i due punti di penalizzazione. E poi ci sono Roma 29 e Milan 27, vuol dire che ci sono in questo momento quattro squadre in due punti tra la Lazio e il Napoli, e comunque Roma e Milan, che a 20 partite dalla fine della stagione certamente non possono dirsi fuori da quella che potrebbe essere una lotta per una posizione in Champions. Anche il Napoli ha il fiatone, ed è evidente, e credo che la vittoria di oggi abbia il peso specifico del platino. Sì, molto importante, perché i partenopei venivano da quattro sconfitte consecutive, evento senza precedenti nell'intera gestione di De Laurentiis, ma soprattutto perché è evidente che nelle ultime due settimane il fattore psicologico, ovvero la mazzata presa dalla giustizia sportiva in primo grado, abbia pesato, e come, sul rendimento dei partenopei, tant'è vero che nell'arco di tre giorni sono stati battuti per due volte in casa dal Bologna e quindi eliminati anche. Savi, sentiamo Hamsik, microfoni di Sky Sport. Battuta perché l'abbiamo visto, veramente poche palle gol in tutta la partita, però l'importante non era subire un gol e dopo alla fine fare uno, almeno uno in più, e siamo riusciti. Cosa c'è in quell'abbraccio a Walter Mazzarri di maggio, di tutta la squadra? La voglia di dire siamo uniti, la voglia di dire era solo un periodo, solo sfortuna, e anche un messaggio al campionato, ci siamo ancora noi per lottare anche per lo scudetto? Ma sicuramente sì, il gruppo è sempre stato unito, purtroppo c'è stato questo episodio che può anche succedere una stagione, però oggi abbiamo messo dentro cuore, abbiamo combattuto, si è visto, e abbiamo portato in casa una vittoria importante. Queste sono le parole di Hamsik. Mi sembra, Xavier, che la sua lettura della partita sia stata perfetta. Il Napoli è in un momento di difficoltà, bisogna stringere i denti e poi in qualche modo un gol si fa. Probabilmente avrebbe dovuto farla anche Stramaccioni questa lettura, invece di giocarsela con quattro punti o comunque quattro giocatori molto offensivi sin dall'inizio. È così, anche perché il Napoli si è reso perfettamente conto che mai come in questo momento era di fondamentale importanza ricominciare a fare risultato, dopodiché le disquisizioni sulla qualità del gioco vengono rimandate a periodi migliori. Quello che Stramaccioni non riesce a comprendere, perché ci sono dei momenti del campionato in cui bisogna prima di tutto badare a fare risultato, e non dipende questo dal numero di attaccanti che vengono schierati. Tant'è vero che l'Inter si è lasciata alle spalle le 10 vittorie esterne consecutive, i 10 risultati utili consecutivi fra partite in casa e partite in trasferta, ma di quel periodo non c'è più traccia. Nell'arco dell'ultimo mese hanno annellato 3 sconfitte in campionato, ce n'è stata una quarta per fortuna dell'Inter influente in Europa League, e questo pareggio palpettato con il Genoa ripropone la questione della qualità scadente del gioco nell'azzurro. Sì, io ti dico altri due numeri. Con le altre 6 grandi l'Inter ha fatto una media di 2 punti a partita, con tutte le altre squadre del campionato, e tra l'altro perdendo tantissimi punti soprattutto in casa, è scesa a 1,2. Io credo che non siano numeri sterili, credo che dietro questa statistica ci sia proprio la difficoltà dell'Inter di giocarsi partite in cui è chiamata a costruire da sola gioco. Hai detto bene, anche perché nel calcio a volte i numeri schiacciano le parole, e i numeri che tu hai sciorinato sono eloquenti e affondano le loro radici in una crisi di gioco dell'Inter. È una squadra che di solito si esalta quando le cose vanno bene e quando tutti i suoi solisti sono in forma giocando di rimessa, ma che stenta ad imporre la propria iniziativa, e questo nonostante per esempio un colpo clamoroso qual era stato la vittoria in casa della Juventus a Torino, che però non ha avuto seguito, come se sconfitta la grande rivale l'Inter si fosse illusa che il resto sarebbe stata una passeggiata tra petali di rose. Sì, ha provato forse ad alzare l'asticella, ma a quel livello non era pronta probabilmente per essere competitiva. Per chiudere, Xavier, il Napoli, ha detto Hamsik, pensa ancora di poter lottare con lo scudetto. Secondo te è ancora un'avversaria credibile della Juventus? Sì, è un'avversaria credibile, ma qui di incredibile c'è la marcia della Juventus, perché sta spazzando via tutti i record, visto che Conte giustamente ha rimarcato come la sua squadra sia addirittura più forte di quella del biennio di Fabio Capello in termini di numeri e di risultati. Noi stiamo parlando di una formazione che chiude un 2012 straordinario e che promette di essere grande protagonista anche nel 2013, e ce lo auguriamo, così come per il Milan, in Coppa dei Campioni. Ecco perché secondo me a questa squadra serve uno come Drogba. Io credo che questi risultati aiuteranno probabilmente anche Agnelli e Marotta a decidere di fare un mercato importante. Poi, se non sarà Drogba, sarà qualcun altro, però certamente un mercato che aiuti la Juventus a fare il salto di qualità, anche se abbiamo imparato nelle ultime giornate che l'infortunio di Chiellini e la partenza di Lucio potrebbero aver spostato leggermente le priorità e le urgenze di mercato. Perlomeno dal punto di vista ufficiale, anche le ultime dichiarazioni in ordine di tempo di Marotta vanno in questa direzione, ma intanto io ricordo che Conte ha reinventato Marrone difensore centrale, questo è un ragazzo dotato di grande talento e la Juve fa benissimo a credere in lui, però è altrettanto evidente che quando si trova di fronte ad una squadra che crea questo numero impressionante di occasioni e spesso non le finalizza in ambito italiano, però trova comunque una soluzione, il redivivo Matri ne è una dimostrazione. In ambito internazionale serve qualcosa di più. Ci vuole un grande qualità. Non c'è dubbio. Grazie a Xavier Iacobelli. È stato un piacere come sempre. Buona serata da calciomercato.com e buon Natale. Buon Natale anche a Xavier Iacobelli. Io vi ricordo il numero verde per intervenire in diretta, 800 24 00 24, per dirci che cosa ne pensate, soprattutto credo della crisi dell'Inter, che oggi non è riuscita ad andare oltre il pareggio in casa contro il Genoa. Intanto Sky Sport, c'è Luca Toni, uno dei protagonisti di questa domenica. Siamo in casa col Pescara, che se riusciamo a fare una partita e 3 punti, chiudere l'andata a 38 punti vuol dire sicuramente essere là davanti. Penso che la Juve se ne andrà e dietro la Juve ci siamo 4-5 squadre che si giocheranno sia il posto Champions che il posto dell'Europa League. Ilaria. Mi sembra che Luca Toni abbia fatto la fotografia esatta di questo campionato, e tra l'altro l'ultima del girone d'andata dopo le feste natalizie è una domenica, un sabato e una domenica che se possibile compatteranno ancora di più la classifica alle spalle della Juventus. Vi leggo le partite, ad esempio c'è Napoli-Roma che è un confronto diretto in cui una delle due squadre lascerà dei punti e comunque nessuno, tutte e due non potranno certamente fare la vittoria. Poi c'è la trasferta dell'Inter a Udine, difficilissima, e in compenso ci sono per Lazio, Fiorentina e Milan 3 gare casalinghe contro Cagliari, Pescara e Siena, il tutto mentre la Juventus ospita la Sampdoria. 800 24 00 24, e allora Marco dalla provincia di Varese, buon pomeriggio. Sì, buonasera e prego. Complimenti per la trasmissione, intanto auguri prima che mi dimentichi. Auguri anche a lei. Più tardi. Niente, volevo un attimino fare il punto sulla situazione Inter-Snyder, dal mio punto di vista modesto naturalmente. È stato detto prima dal dottor Iacobelli che l'Inter non può prescindere o deve decidere cosa deve fare di Snyder o non può lasciarlo fuori. Il discorso è che abbiamo, io sono interista, dico abbiamo vinto 9-10 partite di fila senza Snyder. Quindi delle due l'una, o Snyder effettivamente è necessario o non lo è, o è necessario solo in questo momento. Vero è che oggi non giocava Coutinho, che non vale probabilmente Snyder, ma che sembra essere il sostituto naturale. Mancava Guarin, per cui voglio dire la posizione della società è già stata, a mio parere, sì, Marco, chiaramente espressa. A me sembra che la posizione della società sia stata anche sin troppo chiaramente espressa, e anzi penso che questo sia stato un errore, e a medio termine anche sul mercato di gennaio sia anche un problema che l'Inter dovrà affrontare, che renderà più difficile riuscire a separarsi da Snyder, al di là del fatto che Snyder ha un contratto che in Europa in pochissimi si possono permettere. Il problema però è che nell'ultimo mese, da quando cioè la situazione di Snyder è stata chiarita dalla famosa intervista di Marco Branca, l'Inter ha arrancato sul piano del gioco stramaccioni in un paio di occasioni, mi viene in mente dopo Parma ad esempio, addirittura ha detto chiaramente che gli sarebbe servito un uomo in più a centrocampo, un uomo di qualità, oggi ha fatto giocare a un certo punto Kivu regista, è evidente che sfiora il ridicolo la motivazione della scelta tecnica per l'esclusione di Snyder e che questa cosa, e questo diceva Xavier Iacobelli e io sottoscrivo, poteva essere gestita meglio dall'Inter, si poteva serenamente arrivare alla fine di dicembre, separarsi eventualmente a gennaio, ma non lasciare in tribuna un giocatore che in questo momento, anche per un po' di usura di alcuni suoi compagni, sarebbe stato fondamentale per l'Inter e che sicuramente non ha un doppione nella rosa, non lo è Coutinho, non lo è Alvarez che continua ad infortunarsi, non lo è Duncan e, se mi permette, non lo è nemmeno Kivu che abbiamo visto oggi. Grazie Marco, Salvatore della provincia di Imperia, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Prego. Ovviamente un buon Natale, un inizio buon anno a tutta la redazione, complimenti, e volevo dire comunque che c'è da dire anche un grazie al Genova che comunque è riuscito a fare abbastanza diga in centrocampo, riuscendo a fare modo di contenere le offensive dell'Inter. Non per niente nel secondo tempo credo hanno cominciato a fare i lanci lunghi per cercare di saltare la diga, che avevano creato, c'era della difficoltà nell'Inter a portare la palla verso gli attaccanti, però io credo fosse anche comprensibile all'inizio con una formazione così, anche così sbilanciata, o no? Perché infatti aveva tre attaccanti, cioè tre centrocampisti, mi ricordo, di cui uno rientrava da poco da un infortunio e non era al 100% delle sue capacità, ecco. Sì, non c'è hanno dubbio. Hanno provato a inserire Kivu, chiedo scusa, ma ovviamente non è riuscito ovviamente, a fare tanto. Ovviamente la qualità è stata quella che può essere, considerato che Kivu è un difensore centrale e da regista è certamente riciclato. Grazie Salvatore. Lo sentiamo Stramaccioni alla fine della partita di oggi contro il Genoa. Stramaccioni. Ma sapevamo, io lo sapevo molto bene, sapevamo di essere in un momento particolare con tantissimi problemi, anche i giocatori che hanno giocato, molti non sono stati pubblicizzati, ma Gargano ha giocato fortemente menomato, Cambiasso ha recuperato all'ultimo, avevamo tantissimi giocatori in difficoltà. Io invece ti dico che oggi, anche se il risultato può sembrare non positivo, voglio fare veramente i complimenti ai ragazzi, perché prendere gol contro una squadra così chiusa a un quarto d'ora dalla fine e essere rammaricati per non averla vinta, perché penso che l'occasione di Livaia sia qualcosa di incredibile, a porta totalmente spalancata, io i miei ragazzi vi faccio un complimenti, perché eravamo in un momento difficile e questa sosta arriva al momento giusto. Sì, l'occasione di Livaia è davvero qualcosa di incredibile, al 90esimo come sia stato possibile sbagliare quel gol, però l'avete sentito Stramaccioni parlare anche delle difficoltà fisiche di molti suoi centrocampisti, a partire da Gargano, poi la squalifica di Guarin, a maggior ragione per tutto questo io mi chiedo se davvero oggi come in altre occasioni non sarebbe servita la qualità di Snyder, anche dello Snyder non straordinario delle ultime due stagioni, che è comunque un giocatore importante, comunque un giocatore, lo ha detto secondo me in maniera molto corretta oggi Kivu, un giocatore capace di far muovere la squadra, di trovare compagni smarcati, insomma capace magari di evitare all'Inter quei lanci che nel secondo tempo hanno caratterizzato la partita. Alessandro da Frosinone, buon pomeriggio. Buonasera a voi. Prego. Auguri a tutta la redazione, a lei come conduttore. E una domanda cortesemente. Dica. L'infortunio di Chiellini purtroppo è molto lungo e quindi cade in un periodo in cui ricomincerà il campionato e ci sarà la Champions all'arrivo. Sì, rischia anche di saltare gli ottavi. Esattamente. Su chi potrebbe puntare la Juventus come per sostituire comunque un difensore fisico e comunque carismatico come lui? Io credo, e il nome è stato fatto e in parte è stato confermato anche da Conte, che l'identikit sia quello di Peluso, perché la Juventus ritiene di aver bisogno di un giocatore che possa ricoprire più ruoli, con Peluso andrebbe a coprire un buco a sinistra, anche perché Asamoah se ne va per un mese e potrebbe utilizzare Cáceres unicamente da difensore centrale nei tre dietro. Credo che questa possa essere una soluzione. Poi il mercato di gennaio propone anche molte opportunità last minute. Mi viene in mente ad esempio Andreolli, che a giugno ha il contratto in scadenza con il Chievo ed è un giocatore sicuramente esperto, affidabile, che può dare una mano anche come riserva. Intanto a Sky c'è il protagonista della domenica, Donadoni, allenatore del Parma. Oggi ha sostituito e sgridato Sansone, che dopo la rete del 2-1 aveva deriso un avversario. Sentiamolo. Raccogliendo qualcosa di positivo. Questo è sul risultato. È soltanto quello che i ragazzi stanno facendo durante la settimana. È chiaro che ci sono ancora delle immagini, si può fare meglio. Abbiamo lasciato per strada qualcosa anche per demerito, però la cosa positiva, estremamente positiva, che credo che tutte le partite che abbiamo portato a casa con dei punti è perché ce le siamo guadagnate e meritate con delle prestazioni importanti, quindi devo solo dire bravo ragazzi. Marco Nosotti, l'hai visto festeggiare? Sentiamo se gli chiedono dell'episodio con Sansone. Intanto Renato da Pescara, buon pomeriggio. Renato, c'è qualche problema di linea, allora recuperiamo la telefonata di Renato da Pescara e sentiamo la festa invece di Donadoni, che è particolarmente sorridente, del resto ne ha tutti i motivi, perché il suo Parma ha vinto a Bologna una gara importante, ha vinto un derby ed è certamente una delle squadre che esce meglio da questa prima parte del campionato e arriva meglio alle vacanze di Natale. Sentiamo Donadoni. Sapevamo che questo era veramente un appuntamento importante, perché fare tre punti oggi voleva dire fare un bel salto in classifica e guadagnarsi, come dire, quel rispetto tra virgolette che si merita questo gruppo di ragazzi. Quindi sono soltanto felice per loro, passeremo un bel Natale e questo è positivo. E oltretutto aver fatto una partita di questa dimensione contro il Bologna, che è un'ottima squadra, che ha fatto i risultati che ha fatto negli ultimi 15 giorni, dà ancora più valore, quindi devo dire veramente bravi e sono contento. Ecco, il Parma in questo momento è a quota 26 punti, ha un punto in meno del Milan, il Milan ha anche una partita in meno, però questo dà la dimensione del campionato che sta facendo la squadra di Donadoni. Renato da Pescara, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Prego. Senta, io volevo parlare dell'Inter, volevo dire che i problemi sono più di uno. Prima di tutto la dirigenza, che si è mossa male durante la campagna acquisti, ha speso 10-11 milioni per Palacio e invece ha rifiutato Destro per 12-13 milioni. Sì, Destro in realtà costava di più, però Renato, perché alla fine la Roma lo paga più degli 11 milioni che l'Inter ha pagato Palacio. Prego. Sì, però Palacio c'ha 31 anni, Destro c'ha 20 anni. Sì, ma Destro è un giocatore che è stato perso male dall'Inter, anche se ricordo. Renato, che Destro in realtà l'Inter lo ha perso nell'operazione che ha portato Thiago Motta e Milito, è servito per abbassare un conguaglio in contanti che altrimenti sarebbe stato insostenibile, quindi è impossibile dire che l'Inter non abbia fatto un buon affare comunque a cedere Destro. Certo che nei mesi scorsi, quando all'Inter bastava andare e chiudere con il Genoa tutta l'operazione, evidentemente si è perso del tempo. Prego Renato. Sì, e poi devo dire anche Renato, un momento, mi fa sentire Donadoni sulla vicenda di Sansone? Assolutamente nulla, anzi, finché succedono solo queste cose in campo, ben venga. Ilaria? Ma il rimprovero era per la mancanza di sensibilità, diciamo, no? che veniva registrata dai tifosi? No, beh, ma è chiaro che poi da parte di una tifoseria che subisce il gol e va sotto, poi è chiaro che si scatena e si ha addosso una maglia e quindi si ha la tendenza a proteggere, ma quando non si vivono le situazioni in campo diventa difficile poter dare un giudizio preciso. Comunque si sbaglia, finché si sbaglia in questo modo veramente è una cosa... Sì. È una notazione. Sì, non è successo niente di drammatico, però io devo dire che è stato il gesto più bello della domenica. Sansone ha segnato il gol del 2-1, ha urlato qualcosa verso il pubblico, si è girato verso Diamanti e lo ha evidentemente deriso, insultato, e dopo un paio di minuti Donadoni l'ha tolto, l'ha aspettato davanti alla panchina del Parma e l'ha sgridato pubblicamente. Renato, a chiudere, prego. No, volevo solo aggiungere questo, che pensavo che Stramaccioni lanciasse qualche giovane, invece vedo che fa giocare tutti gli anziani dell'Inter. Questa è una delusione per un allenatore che invece per la sua età avrebbe dovuto lanciare dei giovani. Grazie Renato. Simone Daffano, buon pomeriggio. Buonasera. Prego. Buonasera. No, volevo dire, sono tifoso del Milan, premetto. Fanno tutti i complimenti a Conte e allo staff della Juventus, però nessuno eloge a dovere i preparatori atletici. Io guardavo il sito UEFA, nelle 6 partite che ha fatto la Juve in Champions ha fatto una media di 121 km, partita l'ultima 125. Sono dati impressionanti che la Juve, io adesso non so se c'è un dato anche in Italia sulla corsa. Non disponibile purtroppo, certamente li hanno, ma non disponibile. In Coppa Italia l'avevano dato, Milan 106 km, Juve 119, ecco. Cioè, se la Juve corre così è impossibile, lo fa da un anno e mezzo. Ecco, volevo fare i complimenti proprio ai preparatori perché a questi ritmi è impossibile. Però lei, Simone, ha ragione, io faccio i complimenti a lei per questa annotazione. Si vede anche visivamente che la Juventus ha un altro passo rispetto alle altre squadre del campionato italiano si vede anche che la Juventus ha un passo a livello, ad esempio, con l'intensità richiesta dalla Champions League e dall'impegno europeo. Poi manca probabilmente un po' di qualità davanti e vedremo se nel mercato di gennaio Marotta saprà mettere una pezza a questo problema della Juventus, però è certo che la Juventus corre molto, è tanto delle idee di Conte, dell'intensità che vuole Conte, ma c'è molto dietro anche del sistema di lavoro che Conte ha portato a Torino. Grazie Simone, saluto Matteo Marani, direttore del Guerri Sportivo. Buonasera, bentrovati. Ciao, buonasera. Ciao. Matteo, ne approfittiamo subito per risalutare Matteo Marani, direttore del Guerri Sportivo, e sentire però insieme a lui Deglio Rossi dopo la sconfitta della Sampdoria. Una squadra importante come la Lazio, che si è dimostrata tale anche perché è stata cinica e esperta, e penso che ha meritato di vincere, soprattutto dopo il gol, perché ha tenuto il campo da grande squadra. Noi abbiamo dato tutto e penso che per mezz'ora e 35 minuti abbiamo fatto anche bene, anche dal punto di vista qualitativo. Poi siamo venuti un po' meno, abbiamo perso le distanze, certe giocate non ci sono riuscite, però c'è tanto da lavorare e penso che ci siano le basi anche per poterlo fare. Matteo Marani, non è stata una gran domenica per gli allenatori appena subentrati, ha perso il Siena di Iachini, ha perso la Sampdoria con Deglio Rossi, ha pareggiato ed è forse interrotto il momento di crisi il Genoa, ma ad esempio continua a perdere il Palermo di Gasperini. Questo credo significhi la solita lezione che dovrebbero imparare i presidenti. Sì, sai, magari quando si sbaglia non si trova altra soluzione che mandare via l'allenatore per giustificare magari anche un po' i propri di errori, non potendo cambiare i giocatori, non potendo cambiare il presidente, l'anello debole, si è detto più volte, sono gli allenatori, però in effetti i risultati non credo che possano cambiare così drasticamente. Male tutti i due, diciamo, debuttanti oggi, entrambi sconfitti in casa. Sì, non iniziavano benissimo perché Napoli e Lazio erano certamente due clienti per nulla facili. Partiamo dalla Lazio, che insieme alla Fiorentina, e lo scrivono anche gli amici al 349-238-6666, è sicuramente la sorpresa di questo campionato. E dico la sorpresa perché è vero che la Lazio veniva da un'altra stagione di altissimo livello, però dobbiamo essere onesti, dopo il mercato senza colpi, la partenza dell'allenatore, l'arrivo di uno sconosciuto come Petkovic, in tanti qualche dubbio l'avevano sollevato. Anche secondo me la sorpresa più bella di questo campionato, almeno fino a oggi, nella continuità, perché è vero che non ha ceduto, non ha comprato grandi diciamo, giocatori nuovi, ma non ha neanche ceduto i suoi pezzi più importanti, sostanzialmente ha conservato quello che aveva e si è aggiunto questo allenatore che secondo me ha portato un grande contributo alla Lazio, l'ha portato soprattutto togliendo magari quella parte di polemica intestina, di dibattito provinciale che spesso ha un po' fermato le squadre romane. Il fatto che Petkovic venga da un altro calcio, sostanzialmente da un altro pianeta dal punto di vista lavorativo, credo che lui abbia lasciato molto sereno l'ambiente. E poi è una Lazio che oggettivamente ha molta qualità, perché al di là di Klose davanti nel centrocampo ha dei giocatori formidabili, cioè tutti in grado, tutti di arrivare a segnare e di essere attaccanti aggiunti. ovviamente Hernani su tutti, ma insomma, e poi dicevamo e sottolineavamo prima, un gol subito nelle ultime 5 giornate significa che Klose è poi l'elemento in più, l'elemento aggiunto, è la cassaforte, perché segna e quando segna quasi sempre la Lazio vince, però poi gran parte viene costruito da dietro con questa capacità di non prendere gol, e mi sembra che nell'ultimo mese e mezzo anche Marchetti si sia confermato uno dei migliori portieri della Serie A. Io in questo momento nella mia graduatoria lo vedo dietro Buffon. Se consideriamo ancora Buffon il miglior portiere del campionato, certamente Marchetti sta subito dietro, credo anch'io insomma che sia il migliore. È una Lazio che continua tra l'altro a crescere, perché il punto debole era un po' l'andamento in trasferta. Oggi la vittoria è molto pesante, poi con grande autorevolezza, come riconosceva anche Degli Rossi, cioè una squadra che sta in campo bene, che sta in campo con grande fiducia in se stessa, si vede. Sì, non c'è dubbio. Invece la Fiorentina, che non stava benissimo, ha ritrovato Jovetic, ha ricominciato a vincere. Anche la Fiorentina usciva da una striscia lunghissima a cui era seguito un piccolo momento di crisi, e a questo punto penso, anche in vista del mercato di gennaio, debba legittimamente cominciare a progettare un finale di stagione pensando di poter arrivare in Champions. Sì, la Fiorentina ha tutto, secondo me, per poterci arrivare. Non ultimo il fatto che forse la squadra che in rapporto ovviamente all'investimento, alla rosa e tutto quanto, è quella che gioca il calcio probabilmente migliore, più spettacolare della nostra Serie A. Sì, Borja Valero, un giocatore straordinario, per chi non lo conosceva, ha imparato anche oggi, è stato credo il migliore della sua squadra. Sì, non ci sono dubbi. Poi è chiaro che il recupero di Jovetic, anche questo ha un peso specifico, in dubbio. Tra l'altro noi a un certo punto ce ne eravamo quasi dimenticati che la Fiorentina avesse perso Jovetic. Sì, ha giocato quasi un mese senza Jovetic. Esatto, e lo avevamo per scontato con la vittoria di San Siro contro il Milan, insomma sembravano tutte cose normali, e invece in effetti oggi abbiamo capito che cosa vuol dire comunque il ritorno di Jovetic. Cioè, la Fiorentina ci può arrivare, secondo me ha bisogno, probabilmente per questo terzo posto che diventa una grande bagarre, ha bisogno sul mercato di fare qualcosa. Di un attaccante magari, sentiamo Montella, Sky Sport. Ci può stare tutto, noi in questo momento sappiamo di meritare la classifica che abbiamo, che non abbiamo risocchiato nessun punto non meritandolo, e quindi siamo soddisfatti di questo, insomma. È stata una partita difficile, soprattutto nel primo tempo, poi ci ha pensato Jovetic a sbloccarla. Quanto è importante il recupero di questo giocatore, che lei ha detto non era al 100%, cioè, se stava al 100% segnava 10 gol. No, io ho detto non era al 100%, ma andava bene lo stesso. Secondo me il primo tempo anche c'è stata una netta supremazia, dove avremmo potuto sbloccare già la partita. Poi il secondo tempo i ragazzi hanno accelerato, non era facile perché venivamo da un tour de force, e invece la squadra ha retto sia fisicamente che mentalmente, ha voluto la vittoria, l'ha meritata, ha legittimato. Credo insomma di non vedere punti deboli in questa partita di oggi. Devo fare i complimenti ai ragazzi, perché mi hanno regalato un grande campionato fino a questo momento, e adesso ci riposiamo tutti con grande bisogno, e poi si riparte. E si riparte con la Fiorentina, che riparte terza in classifica, appaiata all'Inter. Mi sembra però, Matteo Marani, direttore del Guerin Sportivo, che giochino tutti per il Milan, che era quasi alle soglie della zona retrocessione un mese e mezzo fa, e adesso si trova comunque non lontanissimo dal secondo, dal terzo posto, e quindi penso con un girone davanti da giocare, pienamente in corsa. Adesso però anche il Milan deve giocare per se stesso, ovviamente partendo da questa sera. Credo che abbia un compito molto difficile all'Olimpico, perché anche la Roma a questo punto vede la possibilità di riagganciare il gruppo. Cioè, va detto che questo campionato è bello e appassionante dal secondo posto in giù. Sì, Juve a parte. Sì, Juve a parte. Nell'altro campionato le squadre più o meno si equivalgono, tutte hanno vissuto momenti magari di difficoltà. La più continua in questa è la Lazio, secondo me, nel gruppo che segue la Juve. Dicevo, quindi anche il Milan ha l'opportunità di rifarsi sotto. Stesso discorso fatto per la Fiorentina, probabilmente un po' anche per le altre squadre. Chi vuole avere la certezza di arrivare nelle prime tre posizioni, che poi vuol dire anche introiti della Champions per l'anno successivo, credo che qualche cosino debba andare a fatto sul mercato, perché tutte hanno delle piccole punti deboli. Sì, tutti devono in qualche modo correggere qualche falla, qualche errore, la Fiorentina, l'attaccante, credo anche l'Inter, un vice Milito, perché è bello far giocare i giovani, poi però al 90esimo oggi credo che un attaccante più esperto il gol che ha sbagliato Livaia non l'avrebbe sbagliato. Sì, non c'è dubbio, mi spiace perché è un giocatore di grande talento, un giovane interessante, ma l'errore di oggi è un errore. Merita di non bruciarsi, però l'errore di oggi è proprio un errore da affanno. Tutto l'attacco oggi dell'Inter non mi è piaciuto, Livaia ha fatto l'errore più grosso, ma tutto l'attacco non è che abbia dato un grande contributo. Per chiudere, sempre su Roma-Milan, abbiamo scoperto ieri da Zeman che la Roma, senza gli errori in gran parte arbitrali, sarebbe prima in classifica. Ha detto mancano 15 punti, basta prendere una calcolatrice e fare due conti, 29 più 15 fa 44, starebbe con la Juventus con una partita in meno. Dico io, se ci cade anche Zeman, è finito il calcio. Esatto, lo dico anch'io. L'ho trovato una polemica non da Zeman, un tono eccessivo. In realtà lui l'aveva detto anche l'altra volta quando passò dalla Roma, che la Roma sarebbero mancati 20 punti. Cioè, io credo che bisogna sfuggire un po' a questa idea del complotto, della congiura, del fatto che qualcuno ce l'abbia i poteri forti contro la Roma. Insomma, io credo che la Roma abbia fatto sin qui un campionato che ancora aspetta un giudizio finale, bisogna vedere la strada che prende e che però sostanzialmente ha i punti che ha fatto sul campo. Qualche partita, la colpa secondo me è stata la Roma, si è fatta rimontare in casa con il Bologna, insomma in alcune partite non è stata la Roma migliore e lì sono i punti che sono mancati. Poi certo, chi in mezzo alla nebbia probabilmente c'era il rigore, anzi certamente c'era il rigore che non è stato dato. Sì, c'erano un paio di rigori, si può stare a discutere, però credo che quei punti la Roma li abbia persi nel processo anche fisiologico di costruzione del gioco di Zeman, che non è mai semplice, e quindi non si può pensare che già da settembre possa essere pienamente redditizio. Sì, poi forse qualche punto in più c'era con De Rossi magari più presente in squadra. Certo, non c'è dubbio. Grazie a Matteo Marani, grazie e auguri. Grazie a voi. Grazie a Matteo Marani, direttore del Guerin Sportivo. Intanto Premier League, perché oggi si chiudono di fatto i campionati tranne la Premier League, che poi prosegue anche come tradizione nel periodo natalizio. Beh, in Premier League ha vinto ma a fatica il Manchester City 1-0 contro il Reading. Pensate, gara decisa al 92esimo da un gol di Barry, e quindi un gol che solleva Mancini da un'altra settimana di polemiche prevedibili, e quindi 1-0 del Manchester City contro il Reading. Paolo da Vicenza, 800 24 00 24, buon pomeriggio. Buonasera a lei. Prego. Intanto buona serie a tutti. Anche a lei. Volevo parlare in merito a una notizia che leggevo negli ultimi due giorni, secondo la quale uno sponsor del Qatar offrirebbe 800 milioni fino al 2016 al Paris Saint-Germain. Sì. Volevo chiederle il fatto che, che questo sponsor avrebbe pure effetti retroattivi. Non sì, farebbe... sul bilancio 2011-2012. Esatto. Non farebbe del fair play finanziario, mi scusi il termine, una cazzata a questo punto? Sì, una pagliacciata. Però Paolo, non si perda d'animo. Non si perda d'animo e ci ascolti dalle 14 alle 15 lunedì. Perché di questa cosa parleremo con Ernesto Paolillo, ex amministratore delegato dell'Inter e attualmente membro del comitato dell'UEFA che osserva i bilanci, e che io credo avrà da raccontarci qualcosa di interessante, ad esempio su come l'UEFA sta prendendo queste manovre del Paris Saint-Germain, ma non solo, perché in settimana il Manchester City ha chiuso il bilancio con un rosso ancora spaventoso, 120 milioni di euro, e questo malgrado un altro di questi accordi con l'Etihad Airways, che di fatto fa parte della stessa famiglia che possiede la proprietà del Manchester City. Ebbene, un accordo anche lì da una sessantina di milioni di euro, assolutamente fuori mercato, eppure, malgrado questo, un rosso di bilancio da 120 milioni di euro. Ci ascolti, perché credo che troverà la puntata assolutamente interessante. Noi siamo arrivati in fondo. Io ringrazio Giorgio De Luca in redazione, Pietro Lacorte per la parte tecnica. L'appuntamento con lo sport non è per domani, perché anche noi tiriamo il fiato con a tempo di sport e andiamo in vacanza, così come va in vacanza il campionato. Noi torniamo invece con tutti i convocati lunedì a partire dalle 14.05. A tempo di sport torna invece nel weekend del 5 e del 6 gennaio con gli orari tradizionali. Un augurio a tutti di buone festività.